awareness of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Ladies and gentlemen, Michael Jordan. Ma sarà che è in arrivo l'autunno, ma è stato sulle televisioni americane un weekend di discorsi importanti, tant'è vero che la mattina dopo ancora se ne continua a parlare. Anche noi allora ne abbiamo scelti alcuni che ci hanno particolarmente colpito. Quello che, mi dispiace dirlo, ci ha colpito più di tutti è quello di Michael Jordan, che ha accettato l'introduzione del suo nome, della sua stella nella Hall of Fame della pallacanestro professionistica americana, e ha fatto un gran discorso. Thank you. I told all my friends I was gonna come up here and say thank you and walk off. Ci è piaciuto, lo sentite con il suo vocione in sottofondo, ci è piaciuto perché ha fatto un discorso motivazionale, non solo un discorso così nostalgico o tanto più un discorso improntato ai ringraziamenti, ma ha provato a spiegare, anche se con insomma tutta quella certa arroganza che ha sempre contraddistinto il suo personaggio, come si fa a diventare Michael Jordan, e ha spiegato che cos'è lo spirito di competizione nella America di oggi, nell'America nella quale lui è cresciuto, nella pacifica North Carolina, come proprio la competizione, il desiderio di competere, di battere l'avversario, ma sempre seguendo le regole del fair play, sia stata la molla che lo ha spinto a crescere, a migliorare, a diventare sempre più forte, sempre più bravo, e come sia alla fin fine anche il motore della aspirazione al successo che gli stessi giovani americani dovrebbero oggi non dimenticare, anzi continuare a mettere al centro del proprio percorso di formazione. Poi mentre le lacrime correvano a fiumi, gli applausi erano martellanti, insomma la commozione era sparsa, questo è il più grande atleta della fine del XX secolo americano, ha chiarito a tutti, ha detto: non abbiate fretta di trovare un altro Michael Jordan, perché tanto non ce ne sarà un altro. Discorsi del weekend. È arrivato anche il discorso di Bin Laden, ben altri toni naturalmente, ben altre argomentazioni, ma anche un fattore nuovo nel discorso, non negli argomenti di Osama Bin Laden, ma il ritardo è il fattore nuovo. Questo discorso era naturalmente atteso per l'11 settembre, ma evidentemente la rete di penetrazione nel sistema della comunicazione occidentale da parte di Bin Laden e dei suoi si è ulteriormente indebolita, tant'è vero che il discorso è stato recapitato domenica sera, quando l'11 settembre era stato anche mediaticamente già archiviato, già consegnato alla storia. Per il resto abbiamo ascoltato negli 11 minuti, quell'11 non so se è un simbolo, ma insomma negli 11 minuti parole del capo di Al-Qaeda, un Osama più speculativo del solito, una specie di cambio di stile, quasi una apertura alla comunicazione anziché al sermone. Ha detto: per decenni vi abbiamo mostrato e spiegato che il motivo vero delle nostre divergenze con voi riguarda il vostro sostegno e la vostra alleanza con gli israeliani che occupano la nostra terra, la Palestina. Se aveste saputo quante sofferenze ci hanno causato gli ebrei con il sostegno della vostra amministrazione, avrete capito che entrambi siamo vittime della Casa Bianca, che è la prima a essere ostaggio dei gruppi di potere e delle lobby israeliane. Il discorso non ha naturalmente modificato gli atteggiamenti del mondo politico americano nei confronti di Osama Bin Laden. Si attende, si continua a auspicare e attendere la sua cattura, insomma, nelle prese di posizione di tutti i politici americani. E devo dire che anche l'impatto mediatico di questo discorso rispetto a solo qualche anno fa è stato veramente trascurabile. Gli americani hanno preferito dedicarsi a cose più leggere, forse appunto perché era weekend. I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Per esempio, questo è stato il discorso che ha fatto più effetto insieme al Michael Jordan, e staccando di parecchio, no, in questo curioso universo caotico della comunicazione americana sulle televisioni, è quello che ha avuto più effetto. La manifestazione si chiama MTV Awards, sono i premi ai migliori videoclip americani, con i soliti famosi, con Madonna che presenta il suo personale omaggio allo scomparso Michael Jackson, invocato inizialmente come protagonista della rassegna. Invece il protagonista e la protagonista sono stati ben altri, nella fattispecie una giovanissima e assai affascinante cantante country che si chiama Taylor Swift, che ha vinto a sorpresa il video per il miglior video femminile, la sconfitta in questione, la molto riverita Beyoncé, e soprattutto il paladino della sconfitta, nella fattispecie Kanye West, uno dei rapper più famosi e anche più vocali, di quelli che parla un po' su tutto, in certi casi anche un po' a sproposito, forse come ieri sera appunto in questa sua presa di posizione, perché è salito a sorpresa sul palco e pare davvero non fosse preparata la scena. Ha preso il microfono mentre la povera Taylor Swift sta facendo il suo bravo discorsetto di ringraziamento, ha detto: ma che, mi dispiace per te, ma il video migliore l'ha fatto Beyoncé. Subito naturalmente la questione razziale è stata tirata fuori dal cassetto. Taylor è andata via in lacrime, Beyoncé si vergognava un po', però era anche un po' onorata che tanto rumore venisse fatto attorno al suo nome, e Kanye West è stato ripreso poco dopo con una grossa bottiglia di cognac in mano, per cui questo suo discorso così di sostegno alla povera, tra virgolette povera, Beyoncé, che non ha vinto, è caduto, come dire, un po' nella scarsità di affidabilità, di credibilità. Poi ci sono state le scuse di tutti a tutti, perché in America stanno molto imparando a scusarsi ultimamente, no? Sapete, da quando danno del bugiardo al presidente, subito dopo dicono: no, scusi, mi sono sbagliato. Allora anche tutti si sono scusati con tutti, l'incidente è stato chiuso. Chi ci ha rimesso, secondo me, è stato Michael Jackson, ma non è stato un grande anno per Michael Jackson. Primo piano. E invece chi questa settimana rimette un'altra volta in gioco le sue carte è il presidente Obama. Ascoltiamo Obama in una intervista ABC di ieri, in cui naturalmente ha cominciato a rispondere alle solite domande. Si celebra l'anniversario, il primo anniversario, spero anche l'ultimo, della crisi, e la questione del dibattito sulla salute è sempre più rovente. Well, here's a conversation I had with one of my advisors early on this process. He said, I've been in this town a long time. È andato a 60 Minutes a presentare le sue ragioni. Tra l'altro oggi, sappiatelo, c'è alle 18:10 in diretta anche sulle televisioni news italiane un discorso importante proprio dedicato a riesaminare le motivazioni della crisi e gli sviluppi della ripresa. Un discorso di Obama oggi pomeriggio, ore 18:10 ora italiana. Nel corso dell'intervista di ieri si è dedicato principalmente oltre che a ricordare i fasti scomparsi di Lehman Brothers e il crollo di Wall Street e ciò che è stato tentato di fare per rimettere in piedi la barca, ma si è dedicato a parlare della questione dell'assistenza sanitaria e della battaglia all'interno del Congresso. Ha ribadito la propria fiducia nell'approvazione da parte del Congresso, non ha mancato di criticare gli oppositori repubblicani che tentano di bloccare la trasformazione della copertura sanitaria, di uccidere la riforma, come dice lui, soltanto per trarne un guadagno politico. Troppe elezioni dentro il lavoro del Congresso, secondo Barack Obama. Di fatto c'è un interessante sondaggio su CNN, a margine di tutto questo di cui vogliamo dirvi. Il sondaggio poneva la seguente domanda a ben 27.600 persone che hanno risposto: come ha risposto Wall Street al collasso dell'anno scorso di Lehman Brothers? È sconfortante l'esito espresso dai partecipanti al sondaggio. Solo il 5% dice che Wall Street ha prodotto dei cambiamenti seri. Il 24% ha detto che qualche riforma c'è stata, ma di ben più grosse se ne ha bisogno. Il 53% ha risposto con un laconico business as usual, sempre la solita vecchia pappa, e il 18% ci ha messo anche il peperoncino dicendo: no, guardate, le cose stanno peggiorando. Se l'aria è questa, meglio sentire Beyoncé. Listen to the song here in my heart a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dream to be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen. Buongiorno America. Genesis the Clue, he was 12 years old. Fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 65 when he died. He was a friend of mine. Ai ai ai, una bruttissima notizia quella che è spuntata dal New York Times, ci ha addolorato, affranto, e forse farà lo stesso con tutta una serie di fan del rock americano newyorkese, sicuramente all'ascolto. A 59 anni è morto Jim Carroll, poeta, punk rocker, scrittore, autore di uno dei libri più significativi, più belli, più intensi sull'America di fine secolo, intitolato The Basketball Diaries, i diari della pallacanestro. È morto a Manhattan di infarto dopo una vita naturalmente tutt'altro che semplice, assai turbolenta, rievocata dal suo libro, dalle canzoni, dalle poesie, dalle canzoni che scriveva. Vi ricordo un suo album memorabile intitolato Catholic Boy, ragazzo cattolico, e vi ricordo anche il film tratto dai diari della pallacanestro, da Basketball Diaries, in cui Jim Carroll era interpretato niente meno che da Leonardo DiCaprio. Era tra l'altro un film strano, sicuramente non perfettamente riuscito, ma che aveva dei grandi momenti. Tra l'altro c'era anche Mark Wahlberg nel cast. Era un tentativo di descrivere la caduta come facile nelle strade di New York, anche per un ragazzo di talento. Ci dispiace, vogliamo mandare in onda ancora qualche secondo di questa canzone, la sua più famosa, per ricordare Jim Carroll. E torniamo per parlare invece dell'altro mondo che fa parte di questo programma, ovvero la Cina. Abbiamo anche una sigla per questo. Buonanotte, Cina. E abbiamo un amico e un ospite in diretta oggi, edizione speciale evidentemente da Pechino, non da Shanghai, per parlare di Cina, per parlare di differenze e similitudini, nella fattispecie per parlare di scuola. Si aprono le scuole italiane in buona parte delle regioni, si aprono le scuole americane, abbiamo sentito il grande discorso di Barack Obama, abbiamo sentito così il più modesto augurio indirizzato al ministro Gelmini ai nostri studenti, ma vogliamo chiedere a Saro Capozzoli come vanno queste cose dall'altra parte del mondo, se gli studenti in Cina quando tornano a scuola ricevono gli auguri del presidente e le raccomandazioni del ministro, come vanno queste cose? Ciao Saro. Ciao a tutti. Diciamo che qui le cose avvengono un po' in una maniera un po' diversa, nel senso che non c'è una vera e propria apertura, perché in pratica le scuole non chiudono mai. Ah, ecco. Cioè, questo è un discorso, c'è una discontinuità, nel senso che ci sono dei cicli di lezione che seguono dei trimestri, no? Si arriva poi al Capodanno cinese, poi si riprende, eccetera. Però l'estate è in cui si fermano le lezioni ufficiali, iniziano le lezioni poi di approfondimento. Quindi gli studenti non restano a casa, non fanno vacanza, cioè continuano a studiare, a approfondire materie che scelgono di approfondire. Senti Sara, ma tu ti sei fatto nei tanti anni di permanenza in Cina e venendo spesso in Italia, quindi avendo anche un raffronto sempre presente, ti sei fatto un'idea sulla qualità dell'educazione scolastica, della scuola e delle opportunità che vengono offerte laggiù? Sei in grado di darci un po' un giudizio, magari a confronto con quanto accade qui? Sì, diciamo che in Cina c'è molta competizione nelle scuole, cioè gli studenti sono praticamente invitati a fare sempre di più e a eccellere. E non c'è l'appiattimento, cioè se c'è qualcuno che emerge dal resto viene tolto dalla classe e viene messo in classi speciali. Ed è un continuo diciamo, ricerca di migliorare. Il confronto è che qui si studia veramente tanto, ci si specializza sempre di più e si arriva ad esempio all'estremo di fare approfondimenti di matematica e fisica e chimica, specialmente la matematica e la fisica, nel weekend, perché si sa, è una cosa nota, in Cina ad esempio è una tradizione essere diciamo molto afferrati su queste materie per poter essere pronti per poi l'università. Ci sono strumenti importanti. Saro, potremmo fare una proposta agli studenti, anche alle famiglie, ai docenti italiani, di fare ripetizione sabato e domenica. Voglio vedere la reazione che riceviamo. Che dici? Diciamo che nell'interesse, cioè, sono gli stessi studenti che chiedono diciamo di poter andare avanti, perché appunto c'è questa, essendo, ripeto quello che ho detto la volta scorsa, un bambino, uno studente, cioè, due genitori, quattro nonni, cioè, si aspettano molto da questa persona, quindi c'è una grande responsabilità e questo passa appunto dall'eccellere a scuola e poi aver successo nel mondo del lavoro. Questo si punta a questo, cioè cercare di essere il migliore. In sostanza il tuo giudizio quindi mi sembra capire è positivo, ovvero molta pressione ma anche una formazione solida, valida, quella che ricevono i ragazzi cinesi oggi. Sì, c'è una formazione valida, però che poi diventa molto settoriale e molto specifica, nel senso che infatti quello che si ha qui nel mondo del lavoro, si trovano ingegneri che fanno bene una parte dell'ingegneria, una parte, ma c'è poco, diciamo, ci sono pochi collegamenti con le materie limitrofe, è un po' come quello che succede in America, molto settorialismo però molto specializzazione. Quindi diciamo è quello che capita qui in Cina ed è un qualcosa che veramente impressiona anche il livello di preparazione di certi ragazzi alle superiori, che superano in certo senso anche a volte i primi anni di università da noi. Senti, facciamo conto che tu avessi un giovane figlio da mandare a una scuola elementare o media cinese, come ti potrebbe tranquillamente capitare, saresti preoccupato, saresti, come dire, motivato, che atteggiamento prenderesti? Ma la cosa che si tende di più è di cercare di entrare in una buona scuola, cioè si fanno le gare ad entrare, semmai ci sono scuole che hanno 1000 posti e ci sono semmai 100.000 richieste, questi sono i numeri, qua si sta parlando di questi numeri, certo. E quindi c'è una grande fortissima selezione, quindi si studia molto anche durante l'estate anche per poter passare i test d'ingresso nelle scuole, specialmente le scuole superiori che sono critiche, perché se uno viene a livello lavorativo, si presenta un curriculum, si è studiato in una certa università, una certa scuola superiore, c'è più chance di far carriera carriera e anche di andare avanti, no? Infatti questo è la mia preoccupazione sarebbe quella di trovare la scuola migliore, normalmente certo. la scuola statale famosa, perché qui la scuola privata è vista come un ripiego di ricchi che non sono riusciti a entrare dentro il sistema scolastico cinese ufficiale, pagano per entrare. Questo risuona un po' anche dalle parti nostre. Grazie a Sandro Capozzi, tra l'altro lo richiameremo presto in causa, anche perché c'è questa questione dell'indurimento, no, tra americani e Cina in base ad alcune misure protezionistiche, su cui ci interesserà parlare con lui. E allora, buonanotte Cina, buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, questo è il vostro appuntamento, nuovo appuntamento giorno per giorno, dal lunedì al venerdì alle 13.32 circa. Io vi ricordo che c'è adesso una mail in funzione, buongiornoamerica@radio24.it, mentre è ancora viva e vegeta e lotta insieme a noi la pagina Facebook con tante migliaia di presenze, si chiama ancora come prima, perché non riusciamo a cambiargli nome, scusate, si chiama Redazione Jeff 3 in numero. Il programma ha una replica alle 0:10, cioè poco dopo mezzanotte, in regia Valerio Occhetti a Roma, Carmelo Lauricella a Milano, in redazione Antonella Migliaccio. Ci sentiamo appunto a 1:30 qui da Radio 24 domani. A risentirci, state bene.